Io devo cominciare con due avvertenze. La prima, che il titolo è sbagliato, e poi spiego perché. Il titolo l'ho dato io, ma è sbagliato. E la seconda, che si tratta di una relazione più su un lavoro da fare che su un lavoro già fatto, e che quindi saranno molto gradite osservazioni, critiche e interventi. Perché il titolo è sbagliato? In realtà io ero partito dall'intenzione di esaminare la letteratura antiburocratica che si sviluppa in Austria nel periodo della Restaurazione. Letteratura che è in generale opera di nobili e di nobili appunto ai margini dell'impero. Pensiamo un nome per tutti, poi sarà uno dei nomi che ricorrerà più frequentemente nella mia relazione, a Adrian Werburg. E l'idea era di vedere un rapporto fra questa problematica antiburocratica e la condizione nobiliare, quindi di vedere il rapporto fra una crisi della presenza nobiliare nell'impero e questa polemica verso la burocrazia. In realtà, man mano che leggevo queste opere, mi rendevo conto che accanto a questo aspetto se ne poteva trovare un altro, forse di più lungo periodo, più fondamentale, per così dire, nel discorso generale sulla costituzione dell'impero. Cioè che questa polemica in realtà era una polemica sulla costituzione dell'impero. Dunque, la mia relazione in realtà è più su questo aspetto, cioè sulla polemica antiburocratica e filonobiliare, in quanto come polemica per un diverso assetto costituzionale dell'impero. Già nel Settecento noi possiamo trovare le tracce di una polemica antiburocratica intesa come polemica, diciamo genericamente, tra virgolette, come polemica antiborghese da parte di una nobiltà che si vede insidiata nelle sue cariche tradizionali dalla presenza di nuovi funzionari di estrazione non nobile. Tuttavia, se noi compariamo la polemica settecentesca e quella ottocentesca, possiamo vedere che se nel Settecento la polemica ha questi aspetti, quindi opposizione all'ingresso di non nobili nella amministrazione, nell'Ottocento invece è piuttosto opposizione alle conseguenze eguagliatrici del modello burocratico, al fatto che tutti indistintamente siano sottoposti, nobili e non nobili, a questo modo di organizzazione del potere. E questo, dico, c'è questa differenza. Malgrado il modello ottocentesco non sia sostanzialmente diverso da quello settecentesco. Se noi leggiamo le opere di Martini, Positiones de iure civitatis soprattutto, o anche quelle di Sonnenfels, noi troviamo l'esaltazione della competenza, della preparazione, la condanna, come dice esplicitamente Martini, del nepotismus. e quindi competenza e preparazione come caratteristiche per la scelta dei funzionari, esclusione della nascita e così via. E troviamo inoltre anche la polemica con cui ad esempio Sonnenfels comincia la sua carriera accademica a Vienna contro la sola esperienza come criterio per che dà la competenza per governare, mentre occorre, dice Sonnenfels, in questo famoso discorso, appunto la scienza. E va notato che queste opere resteranno poi nella preparazione scolastica delle università dell'impero fino almeno al 1848. Martini è sicuramente ancora adottato come libro di testo all'Università di Padova, appunto, alla metà del secolo. Ma non solo si ha un modello sostanzialmente identico fra 7 e 800, cioè il modello settecentesco già prefigura quello ottocentesco. Anche se noi guardiamo la politica effettivamente perseguita da Maria Teresa e poi da Giuseppe II, possiamo vedere che l'evoluzione del pubblico impiego va nel senso appunto di un modello, diciamo, burocratico che comporta la omogeneizzazione di tutti, di tutte le condizioni sociali, no? Proprio attraverso questa struttura burocratica in cui inevitabilmente finiscono per confondersi nobili e non nobili, in cui tutti acquistano identità di valori nel servizio dello Stato e per il servizio dello Stato. E vediamo che già nel Settecento questo modello burocratico si estende abbastanza rapidamente e a scapito delle forme di autogoverno cetuale e di conseguenza nobiliare. E dunque da questo punto di vista la situazione ottocentesca non è sostanzialmente, possiamo dire, diversa da quella settecentesca. Tant'è vero, possiamo portare a questo proposito le osservazioni proprio di uno degli autori polemici, della polemica antiburocratica, contraria allo stato della restaurazione, cioè Sisfield, che nel famoso libro, no, pubblicato per la prima volta a Londra in inglese nel 1828, l'Austria com'è, nei limiti del possibile cerco di risparmiarvi la mia pronuncia delle lingue straniere. Allora, osserva appunto che già nel Settecento le riforme avevano lasciato ben poco spazio all'autogoverno, già le riforme di Giuseppe II avevano lasciato ben poco spazio all'autogoverno dei ceti. Ecco, quindi da questo punto di vista non si può spiegare perché le reazioni alle riforme giuseppine soprattutto siano intese alla restaurazione soprattutto dello status quo ante, al mero ripristino delle prerogative nobiliari nel governo locale e più in generale al ripristino dei meccanismi cetuali, no? Della società per ceti, mentre nelle polemiche di Andrian, Sisfield, Hartig e così via, a questa polemica contro lo Stato macchina austriaco, come esplicitamente lo chiama Hartig, si accompagna una discussione e talvolta una vera e propria polemica che riguarda le condizioni della nobiltà. E come perciò nell'Ottocento accanto alla polemica antiburocratica, si presentino di solito, e questo è chiarissimo in Andrian, delle proposte di riforma radicale della nobiltà, al fine, diciamo, di renderla preliminarmente adatta a soppiantare i modi di governo propri del meccanismo burocratico. Ora, come mai questa differenza? Come mai, voglio dire, nel Settecento si tende ad un mero ripristino dei meccanismi eccettuali, mentre, e non si discutono le caratteristiche della nobiltà, e invece nell'Ottocento la polemica anti-stato-macchina è anche polemica, per qualche verso, antinobiliare. Secondo me la risposta va trovata nella trasformazione che subisce l'impero nel periodo delle guerre napoleoniche. Sintetizzando al massimo, possiamo ricordare alcuni elementi che dimostrano come l'impero tenda a configurarsi alla fine delle guerre napoleoniche come un vero e proprio Stato. Pensiamo alla Diete Normale del 1813, con la quale si ha un regolamento organico del pubblico impiego, no? Che raccoglie e sistematizza tutte le caratteristiche sparse, no? Che non erano mai giunte a completa maturazione, tutte le caratteristiche sparse, dicevo, che si erano venute elaborando via via nel periodo di Maria Teresa e di Giuseppe II. Pensiamo ovviamente alla trasformazione del Sacro Romano Impero, alla fine del Sacro Romano Impero e alla nascita dell'impero d'Austria. Pensiamo, ricordo un saggio ormai di qualche anno fa di Elbling, sullo sviluppo del concetto di cittadinanza nell'impero austriaco. Pensiamo appunto al fatto che dal periodo delle guerre napoleoniche si parla, la normativa parla di cittadinanza, fa riferimento alla cittadinanza piuttosto che ai sudditi. Dunque, questa trasformazione, quindi a mio avviso, è in questa trasformazione dell'impero verso una struttura statuale che si deve trovare la radice di questa polemica antiburocratica. Perché quello che viene in questo modo a mancare è il ruolo costituzionale in senso brunneriano proprio, della nobiltà. Sisfield, quando osserva che le riforme settecentesche hanno eliminato quasi ogni potere dei ceti, aggiunge anche che quanto restava era sufficiente ad appagare l'orgoglio di tutti. E, d'altro canto, Andrian, mi riferisco naturalmente all'opera più famosa di Andrian, L'Austria e il suo futuro, che esce a principio degli anni 40 dell'Ottocento, Andrian, dicevo, per la nobiltà rinnovata, nel modo che vedremo, propone esplicitamente un ruolo politico, no? E secondo un tipo di richieste che vedremo poi già anticipato da altri scrittori, no? Molto più marginali di lui, compreso un semi sconosciuto, almeno per me, trentino, che scrive al principio dell'Ottocento, no? Bartolomeo Alberti Denno, di cui poi avremo modo di parlare. E dunque la polemica antiburocratica trova perciò la sua radice in questo e, oltre a ciò, nella correlativa trasformazione della figura del sovrano, cioè la trasformazione dell'impero in Stato, la fine del sistema cettuale impone una ridefinizione anche della figura dell'imperatore. E a questo punto occorre un momento soffermarsi su questa figura, su questa trasformazione che riguarda il sovrano, perché essa ci aiuta a capire poi come le proposte di riforma di Andrian, no, si leghino a questa nuova figura del sovrano e configurino perciò appunto un sistema costituzionale alternativo a quello incentrato sul rapporto sovrano-amministrazione. E tuttavia in questa continua, diciamo, mia corsa all'indietro, dobbiamo appunto fare un altro passo ancora e per capire questa trasformazione della figura del sovrano andare un momento a vedere quelle che sono state le due principali soluzioni date alla crisi dell'assolutismo illuminato, cioè alla crisi del riformismo settecentesco. Da questo riformismo settecentesco si poteva uscire sostanzialmente, si è usciti sostanzialmente in due modi. Da una parte se ne poteva uscire alla maniera della rivoluzione francese, se ne poteva uscire cioè, per rifarsi a un'opera specifica, col Volney delle Ruines, meditazioni sulla trasformazione degli imperi, no? Riaffermando la quello che fa Volney, riaffermando la perfettibilità dell'umanità, la fiducia nel progresso sia dei modi di organizzazione sociale come progresso delle conoscenze e della scienza, progresso che consente il raggiungimento dell'armonia sociale, quando si ordinano correttamente i rapporti sociali sulla base della esaltazione appunto del popolo libero e legislatore. Il corpo, lui dice, presque total, che si è levato contro il petit groupe, la fraction insensible, formata da preti, religiosi, gens de finance, d'armoire, de livret, de commandant de troupes, dagli agenti civili, militari e religiosi del governo. Dall'altro lato, si poteva uscire da questo riformismo settecentesco in una prospettiva altrettanto ideologica e politica di quella del collegamento fra felicità, diciamo in generale, e sovranità popolare, rifiutando la valenza progressiva dell'applicazione delle scienze, della ricerca del benessere, negando che questo, il benessere, potesse configurarsi come ricerca, potesse servire a rappresentare il fulcro di una ricerca amministrativa e non politica del consenso e dell'accordo fra le frazioni, per riprendere Volney, della società nel nome del sovrano. E dunque se ne poteva uscire riponendo l'armonia sociale, la felicità, non in una natura da raggiungere nuovamente con la correzione dei pregiudizi e l'allontanamento dell'ignoranza, la scientifica organizzazione dei rapporti sociali, bensì se ne poteva uscire rivalutando come naturali i rapporti tradizionali, assimilando natura e tradizione e dunque natura e religiosità, natura e sentimento, natura e legittimità. Si noti incidentalmente che Volney tende invece proprio ad escludere la religione, no? Dicendo che essa è con la sua pretesa di verità, è un punto inespugnabile dal ragionamento, no? È il fomite, il centro di ogni pregiudizio. Ecco, questa seconda uscita, diciamo, nel nome della tradizione, dal riformismo settecentesco, e che tuttavia ne tiene conto, emerge chiarissima, prima ho citato come opera esemplare Volney, quella di Volney, emerge chiarissima ad esempio dai frammenti di Novalis. nel frammento, ad esempio, 964, egli scrive che nessun Stato fu amministrato come fabbrica più che la Prussia dopo la morte di Federico Guglielmo I. Per quanto forse una siffatta amministrazione meccanica possa essere necessaria per la salute fisica, per il rafforzamento e lo sveltimento dello Stato, questo, se trattato soltanto in questo modo, finisce per andarne in rovina. Cioè, quindi la rovina dello Stato è la meccanica ricerca del benessere. Novalis, negata correlativamente la possibilità di fondare i rapporti sociali statali sull'egoismo individuale e sui suoi prodotti, la ricerca del benessere appunto e della felicità nel benessere, conclude che la felicità durevole la creano soltanto l'uomo per bene e lo Stato per bene. E questo Stato per bene è quello dove il trono si trasforma in sacrario, scrive, dove il re e la regina possono e devono essere il principio del sentimento pubblico, dove si nobiliti la vita comune con la re e con la regina, come una volta gli antichi facevano con i loro dei. Là sorgeva la vera religiosità mediante il continuo immischiarsi del mondo degli dei nella vita. Così qui, mediante il costante intrecciarsi della coppia reale nella vita domestica e pubblica, potrebbe sorgere, così qui mediante il costante intrecciarsi, potrebbe sorgere il vero patriottismo. Lo Stato ancora dove il re, genio morale, è il pretto principio vitale, è il vero principio vitale dello Stato. Ma perciò non è né cittadino né funzionario. Qui è evidente la polemica con le concezioni settecentesche. Perché, infine, questo appunto è ciò che distingue la monarchia, che si basa sulla fede in un uomo di nascita più elevata. Questa nascita più elevata non è da intendere tanto in senso nobiliare quanto in senso di nascita che ha delle stigme, dei segni manifesti di regalità. Nella volontaria presunzione d'un uomo ideale. Tra i miei pari io non posso attribuire nulla a uno che si trovi nella mia stessa situazione. La monarchia è il vero sistema, questa è la frase forse centrale, perché è legata a un centro assoluto, a un essere che appartiene all'umanità ma non allo Stato. Il re è un uomo elevato, affatto terreno. Non diversamente, possiamo facilmente commentare, dalla volontà generale, fatto terreno, no? Il sovrano, dalla volontà generale del popolo sovrano e legislatore. Ora, non è il caso qui naturalmente di continuare nelle citazioni, mi pare che risulti già abbastanza chiaro l'assunto che si voleva dimostrare, il rapporto cioè fra le teorizzazioni di un Volney e quelle di un Novalis, in quanto entrambe fondate sulla necessità di ritrovare un principio politico e assoluto allo Stato. Quello Stato che per l'uno come per l'altro ha sostituito come forma di organizzazione del potere e della società l'antico ordinamento per ceti e cui, lasciamo per ora da parte Volney, il sovrano deve essere direttamente connesso così da poter assolvere, lo ripetiamo, la funzione che sulla base di altre teorizzazioni svolge il popolo, la nazione. E ad esempio, non dalla lingua comune come in Volney, ma dal sovrano comune nasce l'identificazione nazionale e il patriottismo, il che comporta in realtà l'identificazione di Stato e patria. Un'identificazione questa, qui torniamo appunto al confronto con la situazione settecentesca, un'identificazione questa che è già in Martini, ma cui non si poteva più giungere nei modi di Martini o di Sonnenfels, cioè nei modi, cioè giustificandola con l'interesse egoistico alla sicurezza raggiungibile in quanto tutti si considerino membri della res pubblica e perciò razionalisticamente e sottoposti al sovrano. E tuttavia un'identificazione cui non si può non giungere se si vuole appunto escludere la sequenza logica che porta alle conclusioni appunto di Volney. E naturalmente Novalis, per quanto sia legato, cioè, si può dire, scrive per il re di Prussia e non per la monarchia asburgica. Tuttavia, se noi prendiamo in mano il Plutarco austriaco di Ormair, troviamo, ossia, come dice il sottotitolo, vite e ritratti di tutti i sovrani della causa d'Austria e dei più rinomati generali, uomini di Stato e artisti dell'impero austriaco, troviamo che i sovrani sono rappresentati come eroi, e noterà Sisfield anche un paio assolutamente improbabili in questa veste, e tutti gli altri che sono ricordati nelle molte centinaia di pagine del Plutarco austriaco sono ricordati in quanto legati al servizio del sovrano nello Stato, e perciò, lasciamo un momento da parte gli artisti che sono un'eccezione parziale, troviamo generali e funzionari, ministri e professori, tutti pervasi di una sorta di eroismo che riflette quello proprio del sovrano e che li caratterizza, al di là del concreto operare loro, del quale, come nel caso di Kaunitz, a cui si dedicano molte pagine, non si dice assolutamente nulla. Cioè, di Kaunitz si dice come veste, come si comporta, il suo stile di lavoro, ma che cosa abbia fatto, no? Ecco, è praticamente di questo non si dice nulla. E scopo dichiarato di Ormair è di proporre questi eroi all'emulazione di tutti e di proporre, attraverso le loro biografie, quella storia dell'impero che, egli scrive, ancora manca, mentre si hanno soltanto storie di parti di esso. Un impero che coincide con la patria, che si identifica con lo Stato e che trova la sua unità nella stirpe di eroi, avrebbe detto Novalis, dei sovrani asburgici, e il vero patriottismo nel servirli. Così che l'eroe e il patriota è il funzionario. A riprova, in questi sette volumi nella traduzione italiana del Plutarco austriaco, non si trova, se non mi è sfuggito, mai ricordato come eroe un nobile in quanto tale. Cioè, i nobili sono ricordati, ma in quanto abbiano servito lo Stato, il sovrano. Ciò per ormai la storia dell'Austria, possiamo dire, è la storia dei suoi sovrani, dei suoi eroi e dei molti Bankbano, per rifarci a Grillparzer, che li hanno eroicamente serviti. E non va dimenticato, su un piano ancora più concreto, che queste nuove autorizzazioni del sovrano avevano già trovato una ratifica nell'atto finale del congresso di Vienna, sulla base dell'atto finale, i poteri dello Stato dovevano essere incentrati nella persona del monarca. Ora possiamo tornare alla nostra nobiltà. È chiaro che questo sovrano, che abbiamo visto trasformato in eroe, no? In semidio, in fatto terreno, non è più legato alla nobiltà, no? Anzi, è legato appunto allo Stato, a una indifferenziazione dei sudditi. Ora, il problema della nobiltà, e bisogna notare come queste teorizzazioni tengano conto appunto delle trasformazioni accadute, cioè Novalis, Ormair e tutti gli altri, e i teorici della restaurazione, non, anche questa è forse una cosa tanto nota da essere banale, non si propongono di ritornare all'antico regime, si propongono di trovare il modo di fondare la convivenza sociale e il potere del sovrano sulla base delle trasformazioni accadute appunto nel periodo della rivoluzione e napoleonico. Ora il problema che si pongono i nobili è appunto un problema di giustificazione, invece, cioè è una proposta appunto costituzionale di giustificazione di un ruolo dell'aristocrazia. Già nel primo decennio dell'Ottocento, Bartolomeo Alberti Denno, che è un figlio cadetto di una famiglia trentina, peraltro imparentata ad esempio nella generazione precedente con l'arcivescovo Migazzi di Vienna e membro egli stesso dell'Ordine di Malta, scrive un volume sulle istituzioni cavalleresche, dove tenta di dimostrare che le istituzioni cavalleresche sono tanto antiche da essere praticamente naturali, cioè da essere state fondate, da essere legate alla stessa struttura della società, no? Quindi nega che le istituzioni cavalleresche siano legate ad esempio al feudo, nega che siano legate all'antico regime e propone una specie di nobiltà legata invece al merito personale, una specie di nobiltà come appunto aristocrazia, diciamo, dello Stato. Una aristocrazia cui dovrebbero spettare le funzioni di governo locale. Naturalmente è eccessivo, in ogni modo bisogna notare come in realtà egli dica: in mancanza di più chiari segni ci rifaremo per questa nobiltà personale alla nobiltà degli antenati. Quindi surrettiziamente egli reintroduce l'idea della nobiltà di sangue. Tuttavia non senza molte critiche a quella che è la nobiltà quale effettivamente la si vede. E egli è assolutamente contrario ad un sovrano assoluto, anzi, secondo lui, è alla politica dell'assolutismo illuminato. Tant'è vero che, secondo lui, la radice della rivoluzione sta nella politica di un Giuseppe II, ad esempio. Questa linea di riflessione tende a collegare il sovrano, no, alla nobiltà in alternativa appunto alla burocrazia, cioè come dirà Artig ad esempio l'Austria è amministrata ma non governata, no? La stessa polemica sarà in Andrian o anche in Sisfield. Sarà sempre la polemica contro questa ruota che gira e che non si può fermare e di fronte alla quale cade ogni distinzione che tenta di uniformare. E in questo modo distrugge l'ordinamento naturale della società, ordinamento naturale che ha bisogno invece, se non si vuole arrivare alle conseguenze della rivoluzione francese, di una aristocrazia legata proprio al radicata sul territorio e legata alle sue consuetudini. Ora, naturalmente anche questa posizione, questa polemica, no, di riforma della nobiltà, in realtà ha dentro di sé molte oscillazioni. Per alcuni, in realtà, quello che si propone in questo modo è quasi tout court la riedizione, bisogna dirlo, dell'antico ordinamento per ceti. Ad esempio, la polemica di Sisfield in questo senso è abbastanza chiara, cioè Sisfield lamenta che gli impiegati siano ormai al servizio del sovrano e non dello Stato. Cita Sonnenfels dicendo che le sue opere dovrebbero essere molto più lette, molto più considerate. No? Ecco. Tuttavia, soprattutto in Andria la situazione è diversa. Mi veniva in mente un altro esempio, sempre a proposito di questa doppia valenza, no? Cioè che non si può dimenticare, della polemica filonobiliare. Un altro trentino, il Barbacovi, propone nel 1819 di, in una serie di opuscoli, una giustizia diversa, delle pene diverse, per i nobili e i non nobili. Se poi uno va a leggere l'opuscolo scopre che per nobili egli intende tutti coloro che vivono civilmente. Questa posizione viene attaccata e stroncata sulle pagine della ufficialissima Biblioteca Italiana, dove gli si dice, gli si risponde, che un conto è la giustizia naturale che lui propone e un conto è la giustizia politica, quindi la giustizia dello Stato. Tuttavia, dicevo, se c'è questi, ci sono queste ambiguità, è chiarissimo in altri, appunto soprattutto in Andrian, la valenza invece di riforma costituzionale. Scrive ad esempio Andrian che l'opinione generale d'Europa riguarda ancora l'Austria come l'Eldorado della nobiltà. Si crede che abbia nel governo un protettore valevole e che questi, alla sua volta, trovi in lei un appoggio solido, un fondamento sicuro. E si chiede se questa situazione, che secondo lui non è affatto vera, no, sia desiderabile in uno Stato ordinato. E risponde che sì, una nobiltà ricca, forte ed istruita, che non sia una casta rigorosamente chiusa agli altri, ma accessibile a tutti gli uomini di merito, formerebbe un governo composto dei più illustri e notabili personaggi della nazione e sarebbe così un'istituzione lodevole. Certo, questa nobiltà, come realmente esistente, è piena di difetti. Tuttavia, essa è necessaria, cioè un'idea appunto della nobiltà è necessaria per evitare il pericolo rappresentato, scrive, da questi proletari senza proprietà, senza patria, che sono gli strumenti sempre pronti ad una rivoluzione che si matura e che l'immaginazione non può comprendere nella sua estensione e nei suoi effetti. Una rivoluzione che è appunto legata al fatto che, una possibilità di rivoluzione, legata a questa ricerca degli interessi materiali così cercati, così idolatrati e che si sono collocati come dei sugli altari. Quindi in realtà la polemica di Andrian a favore di, non voglio essere troppo lungo, a favore di una nobiltà legata alla proprietà, una nobiltà personale, solo il primogenito dovrebbe essere nobile, gli altri fratelli dovrebbero rientrare nella classe plebea, come si esprime il traduttore italiano, dovrebbe essere stabilito un maggiorasco in modo che la proprietà restasse sempre nelle mani di questo primogenito. Dicevo, questa nobiltà è appunto necessaria per riaggregare naturalmente la condizione, la società. E quindi questa polemica è una polemica contro contro l'assetto costituzionale della restaurazione. Ora, qui si potrebbero aprire molti problemi. Io mi limito ad accennarne alcuni. Cioè, in primo luogo, la convergenza che si attua fra queste posizioni e quelle del di una parte del liberalismo quarantottesco in Austria. tra Brook e Thun l'accordo è l'accordo sulla, un accordo evidente è sul problema delle amministrazioni locali. Per entrambi occorre un decentramento antiburocratico, no? Che è favorevole invece a una struttura sostanzialmente curiale, sostanzialmente cetuale di rappresentanza delle province. Così, se vogliamo, possiamo ritrovare queste riflessioni che mi sono limitato a accennare brevemente, no? Sul ruolo del sovrano, sul ruolo della nobiltà, inserite poi, dopo il 48, nello sviluppo del liberalismo europeo. Pensiamo all'idea del sovrano al di fuori dello Stato. È l'idea che viene ripresa nel sistema costituzionalista, no? Nella monarchia costituzionale octroyée. Come osservava Bastide, è un compromesso questo, no? In cui il sovrano è al di fuori dello Stato, il potere legislativo è esterno allo Stato. L'idea di Andrian, e che abbiamo visto così brevemente anche di altri autori ancora più marginali di lui, come Bartolomeo Alberti Denno, è ripresa poi da tutto un filone liberale che si rifà, come si rifà già Andrian, all'esperienza inglese, all'esperienza della nobiltà inglese, no? Quindi la autonomia, il self-government, in quanto autonomia e autogoverno di notabili legati alla terra. E appunto il modello è la gentry. Infine, se vogliamo, possiamo trovare anche nell'idea di Sisfield di una sorta di ritorno all'antico, no? Una intuizione che verrà poi sviluppata nell'esperienza del liberalismo, cioè quella della burocrazia come mediazione tra ceti e non come come nuova aristocrazia esse stessa dello Stato, no? Sisfield, nell'ultima parte del suo libretto, fa un ritratto ironico delle abitudini, delle diverse abitudini della nobiltà viennese, della nobiltà che risiede a Vienna, e dei burocrati, no? Dice che questi appunto sono schiavi del lavoro, non possono mai andare in società, se no vengono licenziati, invece i nobili sono più colti e così via. Ecco, questo è veramente appunto tracciato per sommi capi il filo delle mie riflessioni. Vorrei ancora aggiungere un'ultima cosa, relativa appunto alla vicenda austriaca, alla vicenda dell'impero dopo il 1848. Questa mattina la dottoressa Saurer in un suo intervento ricordava le vicende della tassazione e come si dovesse arrivare al 1913 per avere un'imposta unificata. Ora è indubbio che in Austria, cioè, il problema, voglio dire, che ci si pone, che l'Austria nel 1914, no, è un impero, ma forse non è uno Stato, come dice, per fare un riferimento un minimo colto e letterario, persino uno dei personaggi, no, dei personaggi minori della Marcia di Radetzky di Roth. Ecco, forse il motivo di questo fatto che l'impero non riesce a seguire il passo dell'evoluzione statale, malgrado appunto a principio dell'Ottocento esso si configuri come Stato, sta proprio in questa convergenza di riflessioni liberali e nobiliari e nella forza effettiva di questi ceti nobiliari, una convergenza che impedisce la evoluzione della dottrina austriaca, ad esempio, nel senso tedesco o anche italiano, cioè in Austria si continua ancora fino alla fine dell'Ottocento a pubblicare, a pubblicare il libri sul diritto pubblico dell'impero in chiave sostanzialmente cameralistica, cioè di scienza dell'amministrazione. Sternegg in Ama, no? Scrive a Innsbruck proprio l'ultimo libro di questo senso nel 1898. E non per niente persone come Stein trovano in Austria il loro luogo di elezione, no? La proposta appunto di una scienza dell'amministrazione che sia scienza di governo dello Stato da parte dei ceti e, come è anche stato detto, scienza per la crisi della società borghese, quindi, come avrebbe detto Andrian, scienza per evitare la rivoluzione, no? Ecco, è significativo di questa vicenda. Io mi fermerei qua, si potrebbe ancora parlare un momento di Stahl, no? Vale la pena di osservare appunto le polemiche di Stahl, che scrive per il re di Prussia, che è interessato alla configurazione dello Stato prussiano appunto nei confronti delle dottrine, delle idee, no, delle teorie professate appunto nella Vienna della Restaurazione. E troveremo sostanzialmente proprio la stessa polemica, cioè che contrapporrà più avanti Stein e Gerber, Laband e i teorici dello Stato di diritto del tardo Ottocento in Germania.